Radio 24 presenta Il riposo del guerriero con Stefano Gallarini. Le 10 e 14 minuti, buona domenica da Stefano Gallarini, comincia il riposo del guerriero e io direi subito di iniziare con quella che sarà la possibilità di portarvi a casa fino a 1000 euro da spendere su libreriarizzoli.it, ammesso che riusciate a risolvere il mistero in 24 minuti. Il mistero in 24 minuti comincerà alle 11:30. Il primo indizio di questa settimana, eccolo qua. Un deserto che conosco. Questo appunto è il primo indizio. La risposta al mistero potrebbe essere, come al solito, una delle notizie della settimana oppure un personaggio, qualcosa di particolarmente conosciuto. Per prenotarvi dovete farlo adesso. Il numero verde è sempre quello: 800 24 0024. Alle 11:30 giocheremo e visto che abbiamo parlato del mistero in 24 minuti, mai titolo fu più adatto per quanto riguarda anche la puntata di oggi, perché molto ha a che fare col mistero. Tra pochissimo, dopo la viabilità. Il riposo del guerriero. Oggi cercheremo di svelare il mistero, perché anche i misteri contengono, scusate il bisticcio, un mistero, appunto. Luca Crovi, ciao, buona domenica. Buona mattinata a tutti. Nel senso che quando si scrive un giallo, visto che di questo oggi parliamo, ci sono dei misteri da svelare, delle tecniche misteriose da usare perché il giallo possa funzionare. No, la cosa divertente è che ci può dire tutto il contrario di tutto, nel senso che ogni autore aveva le sue caratteristiche particolari. Pensate che Agatha Christie, quando scriveva i gialli, all'inizio della sua carriera si metteva dentro una vasca, dentro alla quale metteva un asse di legno con sopra il tè da una parte e dall'altra i biscottini e in mezzo la macchina da scrivere. Quando ha cominciato a diventare famosa, ha scelto invece che stare in una vasca da bagno di andare in alberghi scomodi, di quelli di terza categoria, con le pulci, dove se resisteva già un giorno era tanto. Così nel giro di una settimana aveva finito i romanzi. Lei sosteneva di essere una fabbrica di salsicce. Questo per dirvi che i giallisti devono essere appetitosi quando scrivono certe cose e soprattutto devono inventare qualcosa che piaccia al pubblico e che li diverta. Mi domando se il tè non si sia mai versato sulla macchina per scrivere. No, sicuramente, ma anche le macchie le utilizzi, no? Diventano un mistero. È bello che tu sei partito con Giuliano De Palma, no? Che canta Tutta mia la città. Io oggi posso dirvi che in questa città di Milano siamo bloccati da una parte perché c'è il traffico podistico, dall'altra c'è X Factor, per cui il mistero è: succederà qualcosa a quelli di X Factor? Qualcuno avrà il coraggio di rapirne uno? A me è già accaduto questa mattina, mi hanno rimosso l'auto e non sanno dov'è. Quindi mamma già mia, un mistero. Ma non hai un detector sopra l'auto? No, dovrebbero di quelli stile loro. 007. Ma lasciamo perdere, le cose personali non sono importanti. Allora, Luca Crovi, critico musicale, sei stato redattore o sei ancora la Sergio Bonelli? Sono ancora. Ancora, scusami. E vabbè, tu hai una passione, appunto quella del thriller, per usare un termine sì. In italiano. Riesco a dormire cambiare, anche se ce l'ho. E c'è un tuo saggio che è Tutti i colori del giallo, appunto perché il giallo ha tanti colori, le sfumature che oggi cercheremo di raccontarvi. E lo facciamo perché c'è un'iniziativa interessante che vi coinvolgerà proprio da vicino. Francoforte, buona domenica. Buongiorno. Ecco, da Francoforte ci parla di un'iniziativa che vi terrà presentissimi, nel senso che coinvolgerà voi ascoltatori dal 1 luglio fino al 9 settembre. Avrete la possibilità di fare che cosa, Franco? È una possibilità direi molto interessante, è una sfida soprattutto, perché con questa collaborazione tra il Giallo Mondadori, la collana storica di gialli che ha dato nome, no, allo stesso genere, e Radio 24, abbiamo organizzato questa iniziativa che si chiama Giallo 24 e che permetterà agli aspiranti scrittori di gialli di mandare dei racconti in redazione a Mondadori. Noi faremo delle valutazioni, i migliori racconti li porteremo da voi, Radio 24, in trasmissione per leggerli e per commentarli. La difficoltà vera sarà che l'autore dovrà scrivere un racconto lungo di una ventina di cartelle, 40.000 battute, ma anche una versione bonsai, diciamo. Cioè una versione brevissima da una pagina che sarà quella che sarà poi letta in radio se selezionata. Mentre il racconto lungo sarà poi pubblicato insieme agli altri che saranno scelti, eletti in queste settimane, quest'estate, in un'antologia che uscirà a gennaio nei Gialli Mondadori. Quindi è una cosa importante, una sfida importante, non semplice, ma sappiamo che gli autori di giallo in Italia sono capaci di tutto. Ecco, tra l'altro, Luca, scusami, mi sembra di capire che nelle 2000 battute, cioè nella versione che tu hai chiamato bonsai, Franco, quella lì riassunto, la cosa più difficile sia far venire fuori il carattere di uno dei personaggi, perché è facile dire l'inizio, il delitto e il colpevole, però insomma non è facile. Luca, come ci si può... Allora, diciamo che Franco potrebbe spiegarvelo anche da autore, perché lui ha scritto anche dei romanzi gialli. Il trucco è essere sempre chiari, cioè una delle cose che hanno sempre detto gli autori di giallo fin dall'inizio è che non bisogna fregare il lettore, cioè gli devi dare tutti gli elementi possibili. Una delle cose che anzitutto ti fa entrare dentro una storia è una partenza che può essere il ritrovamento di un cadavere o comunque un inizio particolarmente emozionante, no? Che ti fa entrare dentro la storia. Poi man mano puoi costruire il carattere del personaggio. Ma volevo chiedere una cosa a Franco. Franco, negli ultimi anni quanto gli autori italiani hanno cambiato anche il mercato rispetto al giallo Mondadori? Quando debuttarono nel 1929 furono tra i primi a debuttare su giallo Mondadori, adesso sono una realtà importante dentro la vostra testata, vero? Ma sono una realtà fondamentale. Guarda, tra l'altro io sono felice di poter dare appunto un dato che ho avuto di recente, ma il romanzo Nei Gialli Mondadori più venduto nel 2011 è un romanzo di un italiano. È tutto quel nero di Cristiana Story, quindi... Beh, allora le facciamo un applauso, visto i risultati. Le facciamo un applauso virtuale al momento, ma glielo faccio sicuramente. Io sono felice di questo, l'abbiamo spinto, l'abbiamo promosso, abbiamo verificato che poi il pubblico è attento. Non è vero che leggono solo i grandi classici, leggono solo gli americani tradotti. Senti, ma... anche gli italiani. E poi è vero che avete una vera e propria squadra di professionisti su Segretissimo? Sono praticamente tutti italiani, anche quando hanno il nome straniero? Assolutamente sì, la Italian Legend la chiamiamo, come Sergio Altieri, che è stato un po' il fautore di tutto questo, il mio predecessore in toga di comando in Mondadori per queste collane, che ha trascinato dentro anche me come autore. Però sì, in Segretissimo gli italiani con il loro nome o con il nom de plume comunque funzionano benissimo e sicuramente meglio persino di tanti stranieri, insomma. Quindi quando si ha la tecnica, quando si ha la consapevolezza di quello che vuole il pubblico, di quello che si può produrre, non ci sono prevaricazioni in questo senso. L'importante è scrivere dei buoni romanzi, delle buone storie, qualcosa che ti avvince, qualcosa che ti tiene legato alla pagina, e gli italiani stanno cominciando a saperlo fare molto bene. Ecco, io dico sempre che ultimamente ho l'impressione che gli scrittori siano più dei lettori, ho questa impressione in generale, tra web, blog, pagine che si scrivono, diari, cartacei, qualcuno ancora lo fa, lettere e libri, ho questa impressione, e speriamo che le cose si compensino comunque. Beh, ma la prima cosa che bisogna dire è che prima di essere scrittori bisogna essere lettori, anzi se non hai letto certe opere è difficile che tu possa scrivere altre cose. È il motivo per cui tutti quelli che scrivono per esempio thriller o storie legate alla cronaca nera, se non hanno studiato e si sono documentati seriamente su certi casi, non li possono raccontare neanche in maniera emozionale. Ecco, tra l'altro da questo punto di vista poi vi racconterò anche dei gialli scritti da dei poliziotti, per cui c'è anche questa parte. Franco, allora per chiudere l'intervento con te, volevo dire che i racconti possono già essere inviati, vero? Assolutamente sì, possono essere inviati al giallo Mondadori, in Mondadori, l'indirizzo è semplicissimo, che è via Arnoldo Mondadori 1, 20.090 Segrate, e ci arrivano. L'importante è che ci siano le due versioni, una versione lunga, 40.000 battute massimo, quindi 20 cartelle da tiro scritte, e la versione breve, quella cosiddetta bonsai, quindi... che però deve essere appunto non un riassunto, ma vivere, avere una valenza propria, anche cioè perché raccontino giallo. Esatto, anche perché le più belle poi verranno lette in radio, esatto. Vi ricordo in questo programma che sarà giallo 24 dal 1 luglio al 9 settembre in onda. Grazie Francoforte. Ciao Franco. Grazie a voi. Ciao. Buona ciao. Giornata, grazie. Allora, Luca, mi viene in mente una cosa, il fatto che abbiamo parlato dei gialli Mondadori, no? Perché da noi si chiamano gialli per la copertina. Ma no, la cosa divertente hanno provato altri colori. È che ne avevano provate varie, cioè sì. Anche quella azzurrina e quella verdina, no? E però furono scartate dagli editor di quel periodo e vennero disegnate poi le copertine da un pittore che si chiama Abbey, e decisero dopo un tot, dopo l'inizio, di creare un cerchio rosso, che è quello che vedete sempre sì. Sulle copertine del giallo Mondadori, che in realtà era un omaggio alla firma di Edgar Wallace. Da quel momento in avanti, se voi andate in un negozio, in una libreria, in qualsiasi posto, posto e chiedete un giallo, sapete che chiedete suspense. Quando li lanciò la Mondadori, fecero dei lanci dicendo non dormirete la notte, opere che finalmente vi faranno star svegli, e poi soprattutto reclutarono decine e decine di autori. Il primo autore importante che debuttò su quella collana, figuratevi che è Robert Louis Stevenson, che non era uno sconosciuto all'epoca, ma utilizzarono poi anche decine di narratori italiani che prima non scrivevano gialli, e fu in parte il regime a obbligarli a entrare a far parte di quelle collane, perché sostenevano che gli italiani lo facevano meglio, no, che gli autori esteri. Fu buffo perché poi a metà di questo lavoro il regime decise di censurare gli italiani, suggerendo che i delitti non dovevano essere fatti da criminali italiani, non dovevano essere ambientati in Italia, e soprattutto a un certo punto decisero di toglierle completamente quelle collane. L'unico che riuscì a svicolare da questa situazione fu Scerbanenko, che usciva nei romanzi della Palma, e la censura la subirono da una parte i gialli e dall'altra i fumetti. È divertente perché l'unico fumetto che all'epoca non subì questa censura, che arrivava dall'America, era Topolino, e la battuta dell'epoca è che probabilmente i figli del Duce amavano molto Topolino e Topolino non venne censurato. Però invece secondo me ci sono altri motivi editoriali legati a questo. Però pensate se le copertine invece che essere gialle fossero state verdi. Oggi entreremmo e chiederemmo vorrei un verde. Certo, oppure un azzurro, ecco, capito, che non so, il giallo forse si dice per qualche ragione, il rosso è troppo facile, il nero rappresenta un'altra cosa, è ancora più dura, più violenta rispetto a certe atmosfere. Ecco, per cui il giallo è ormai nel nostro cuore, però tu mi dicevi anche, siccome questa è una parola italiana, cioè il giallo è giallo solo in Italia, che in realtà in Francia per giallo si intende qualcosa che ha a che fare con l'Italia, sì, ma non... Sì, sì, se voi sentite parlare un francese di giallo, in realtà sta parlando di Dario Argento e di tutti quei film come quelli di Umberto Lenzi, di Mario Bava, degli anni 70, che avevano per protagonista l'assassino, quindi l'occhio dell'assassino raccontato al cinema, anche tutti quei film derivativi tipo quelli di Michele Soavi, anche recenti, che ci mostrano l'assassino con le mani guantate, il pugnale, la vittima che lo guarda di sguincio, sono tutti quei film che sono definiti come giallo dai francesi ma anche dagli americani. Quindi una cifra registica, sì, quella, e con una componente anche horror abbastanza forte, con questa caratteristica che di solito è l'assassino il protagonista. Alessia Gazzola invece non sapeva bene di quale colore così disegnare la copertina, ha deciso di mischiare i due generi. Alessia, ciao, buona domenica. Buongiorno a tutti, buona domenica. Allora, con La Lieva, che è stato il primo romanzo, e adesso ce n'è un altro, Un segreto non è per sempre, e devo dire che Alessia ha miscelato due generi che sono il giallo, visto che di cui stiamo parlando, e il rosa. Sì, infatti io non so bene, ecco, cosa esca da un punto di vista pittorico dal mescolare il giallo e il rosa, però di fatto è quanto ho fatto io, quindi... Però ha funzionato dal punto di vista, anche per come è scritto ovviamente, sei riuscita a fare un romanzo giallo di grande successo, e che, cioè, banalmente non si può dire ha miscelato le due cose, però da un certo punto di vista la parte dedicata all'amore è importante nel tuo primo romanzo, nella Lieva. Sì, sì, è importante almeno quanto l'intreccio fra virgolette appunto giallo, se non di più, perché poi di fatto è perché è misterioso anche quello. La chiave forse è che anche quell'amore è misterioso, cioè è giallo anche l'amore, non so se mi spiego, è giallo anche il rosa, esatto. Ecco. Ma è che io ho sempre individuato questi libri come delle storie, come le storie di una ragazza, cioè con quelle della mia protagonista, e quindi è la sua vita in qualche modo, le sue relazioni sentimentali ma anche di amicizia, familiari, tutti i suoi problemi lavorativi. Cioè, la storia è quella della sua vita, poi lei, essendo un medico legale, chiaramente questa sua vita occasionalmente è attraversata anche da vicende criminose in qualche modo, quindi è per questo che poi si tinge di giallo la storia, però appunto io ormai non so più se definirlo davvero un giallo oppure appunto forse non è comunque neanche un rosa, quindi non sappiamo più che colore. Vabbè, mi hai dato qualcosa, no, un neologismo, un neocolore per quanto riguarda il genere di romanzi. Alessia, resta in linea perché c'è la pubblicità e poi torniamo a parlare con te, così potrai dare qualche consiglio agli ascoltatori che volessero cimentarsi nel giallo 24. Il riposo del guerriero. Alle 10.33 con Luca Crovi stiamo parlando di gialli e c'è Alessia Gazzola al telefono in questo momento, autrice dell'Allieva, giallo-rosa, chiamiamolo così adesso per brevità, di grande successo, e adesso con un altro romanzo, Un segreto non è per sempre. Allora Alessia, prima di chiederti, visto che l'Allieva è stato il tuo romanzo d'esordio, vero? Sì. Ecco, quindi poi ti chiederò qualche segreto, tra virgolette, da dare magari agli ascoltatori che volessero cimentarsi in Giallo 24, quindi nello scrivere un racconto di questo genere. Ma c'era Luca che voleva farti una domanda. Forse senti, Alessia, buongiorno. Allora, ti volevo chiedere una cosa. Tu passi le tue giornate assieme ai cadaveri, no? Visto che fai un certo tipo di professione. Quanto quei cadaveri ti parlano, ti raccontano le loro storie? Molto spesso a raccontare le storie non sono proprio i cadaveri, quanto tutto quello che c'è attorno al cadavere, nel senso quello che troviamo nelle loro tasche, quello che troviamo in casa loro quando si fa un sopralluogo, se ad esempio il soggetto è morto in casa, quello che raccontano i parenti che sono fuori dalla camera mortuaria e raccontano appunto, e quindi sicuramente ecco, c'è sempre un discorso di curiosità e di feedback, come dire, in questo tipo di circostanze, o almeno forse lo sento io perché lavoro di fantasia, ecco, non saprei dirlo. Senti, dentro al tuo ultimo romanzo, Un segreto non è per sempre, ci racconti che gli scrittori sono dei ladri di storie e spesso possono anche trasformarsi in assassini per scrivere queste storie. Allora, a quelli che parteciperanno a Giallo 24 cosa consigli? Di rubare dei racconti di altri e presentarli a Giallo Mondadori, che tanto non se ne accorge nessuno, oppure di leggere certi libri dai quali possono scippare delle idee buone? Io direi di guardarsi in generale molto molto attorno, perché io sono fermamente convinta davvero che lo scrittore sia un ladro, e di fatto le mie storie sono sempre partite da qualcosa che qualcuno mi ha raccontato, da una persona che ho incontrato e che magari mi ha colpito, non fosse altro fisicamente, che poi ho trasformato nel personaggio di un libro. Quindi sicuramente essere ladri della realtà, e poi senz'altro studiare moltissimo. E come si fa a studiare? Attraverso la lettura critica, ragionata, dei migliori gialli, ecco, dei veri gialli, perché quella è la vera scuola di scrittura, questa è la mia opinione. Poi certo, io ho raccontato una storia in cui si esplora il lato più oscuro della scrittura, cioè quella smania di pubblicare che può portare davvero a vendere l'anima al diavolo. Quindi, ecco, però non lo consiglio. Certo, non consigliamolo, anche perché Alessia, siccome nel nostra iniziativa Giallo 24 gli ascoltatori sono chiamati a scrivere una ventina di cartelle per quanto riguarda il racconto, e poi riuscire in 2000 battute invece, quindi in una cartella, a riraccontarlo per renderlo radiofonico, tu riusciresti in 2000 battute a riraccontare l'Allieva, per esempio, che ha 350 pagine? Francamente ecco, non lo so, perché io non ho il dono della sintesi, e penso che per compiere un'operazione di questo tipo ci vogliono tutta una serie di requisiti. Io non sono mai stata capace nemmeno di scrivere la sinossi dei miei libri, quindi francamente non lo so. Va detto che non mi sono mai cimentata, per cui non sto impegnandomi cosa riuscire a fare, però senz'altro credo che sia davvero una sfida. Eh sì, io non saprei da dove partire. Come? Non dico, non saprei da dove partire, perché per raccontare un giallo in una cartella è difficile, cioè per riuscire a renderlo in qualche modo. Sì, no, ma indubbiamente, questo, quindi è una grande sfida di qualità e di capacità, questo lo ritengo, infatti a mia volta, ripeto, da questo punto di vista, ecco, di come scrive un giallo in una cartella, io personalmente non saprei davvero che consigli dare. Penso che si dovrebbe molto puntare sulla capacità di coinvolgere immediatamente, cioè di innescare una curiosità irresistibile, questo è l'unico consiglio che posso dare. Tenete presente che di solito le desiderare che fosse più lungo, cioè che induca, sì, il lettore a voler leggere poi le 20 pagine. Ecco. Cioè, una cosa vera è che se la prima pagina che voi presentate non funziona, la gente non compra il libro in libreria. È la prima cosa che guardano quando lo aprono. Quindi conta molto l'incipit. Se quello è storto, sarà difficile che dopo 30 pagine si divertono. È come un film: se il primo minuto non funziona, non riuscirà a piacere mai. Per cui bisogna saper catturare l'attenzione fin dall'inizio. all'inizio, è vero. Grazie Alessia e complimenti. Grazie a voi, un saluto per entrambi. Ciao Alessia. Ciao, grazie. Arrivederci. Luca, per dare un consiglio ai nostri ascoltatori proprio, tu da dove partiresti per fare questa cartella riassuntiva del romanzo? Io gli darei dei consigli. Sì. Allora, gli consiglierei di leggere Come scrivere un giallo di Patricia Highsmith, che trovate in edizione Minimum Fax, ma anche Home Writing di Stephen King, che sono due manuali di scrittura molto veloci da leggere, scritti come se fossero dei racconti e dei romanzi, in cui King e Highsmith raccontano come si trovano le storie e come si raccontano. Delle volte tu puoi anche avere una buona storia, come una barzelletta, ma se non la sai raccontare non funziona, no? Allora devi trovare il modo giusto per trasformare quella storia che è interessante in una storia che è leggibile. Vi consiglio quei due libri lì perché sono facili per introdurvi. E poi un consiglio che vi do, visto che si tratta di racconti, è di leggere magari dei classici racconti come quelli di Edgar Allan Poe, tanto per darvi un'idea, cioè i classici racconti di mistero, perché il dono della sintesi è difficile da raggiungere, ma leggendo gli altri e la scansione delle storie è facile da sintetizzare. Si può leggere anche Buzzati per avere Conan Doyle, anche per esempio. Conan Doyle sono molto ci sono dei racconti che sono brevissimi, sì. Veramente una pagina e sì, mezza, sì. E ma anche tanto. Giorgio Scerbanenko, per consigliarvi un italiano, se voi leggete i racconti di Milano Calibro 9 o quelli del 100 delitti, trovate delle storie scritte in una due pagine che funzionano. Oppure rileggere magari quei corsivi di scrittori di cronaca nera tipo Piero Colaprico su Repubblica, che vi raccontano degli eventi di cronaca molto forti. Quello vi insegna come anche la cronaca può diventare immediatamente un racconto appassionante, con la possibilità anche di avere un occhio speciale sul mondo. L'importante, secondo me, visto che vi hanno dato delle battute fisse che non potete superare, è di non scrivere troppo, se no dovete tagliare, e quando si taglia col macete la sofferenza per lo scrittore è incredibile. Altissima, certo. Tra l'altro, beh, sia tu l'hai detto all'inizio, ma poi l'ha detto prima anche Alessia, la cosa fondamentale è la preparazione. Quando si scrive una storia di questo genere bisogna sapere cosa si sta dicendo, nel senso che non puoi inventarti. Quando c'è un'indagine, gli elementi dell'indagine devono essere reali, insomma è la fortuna di CSI è quella, no? Cercare di essere più veri possibili anche su cose che non fosse un po' troppo. No, ma poi il trucco è essere dei buoni osservatori. Allora, io ho scritto 5 racconti nella mia vita. Allora, 4 di questi, pubblicati da Mondadori, sono in realtà delle storie vere che mi sono successe, che io ho camuffato perché sì, sennò potevo essere denunciato come dal vicino, sempre, di casa, certo. Però tutto quello che ho raccontato in realtà era veramente successo, ho solo cambiato il punto di vista della narrazione. E spesso voi avete delle storie che vi sono capitate lì di fianco che sarebbero ottime per un racconto. Poi tenete presente che questi racconti possono essere ambientati oggi, ma possono essere anche ambientati nel passato, quindi per Giallo 24 vi potete sbizzarrire, anche andare nel Medioevo, nel 600, nel 500, insomma potrà fare solo piacere alla redazione del Giallo Mondadori, a quelli di Radio 24, avere delle buone storie da poter poi trasformare in radiodrammi. Ecco, proprio perché la conoscenza è fondamentale anche del mestiere, da un certo punto di vista, ci sono alcuni poliziotti che hanno cominciato a scrivere gialli e da qualche anno hanno uno stand al Salone del Libro di Torino. Alessandro Tedesco ha voluto incontrarli. Vi faccio sentire la sua chiacchierata con Roberto Centazzo. Poliziotti giallisti, un poliziotto è avvantaggiato nella scrittura di un giallo? Nella stesura della procedura sicuramente, perché non devo chiedere consulenza a nessuno. La trama è inventata come in tutti i libri gialli. Ma ti ispiri anche a episodi che hai visto realmente nel tuo lavoro? Ma io dico sempre che tutti i libri in parte sono autobiografici, perché prima o poi uno quello che ha dentro lo tira fuori, quello che ha vissuto, che ha ricordato, che anche ha avuto esperienze raccontate da altri, prima o poi diventano un bagaglio dal quale attingere. Ma un poliziotto, almeno nella fantasia, in un giallo, riesce a creare il delitto perfetto? Io credo di no. Non credo che esista veramente il delitto perfetto, perché purtroppo o per fortuna per gli inquirenti qualche piccolo particolare si trascura sempre, per cui si riesce da quel piccolo dettaglio poi a risalire al colpevole. Ecco, Roberto Centazzo è autore di Tocca l'osso e il boss Cardellino, che è un giallo ambientato a Genova negli anni 70. Ecco, volevo girare la domanda a te, Luca. Il delitto perfetto funziona o no per il lettore? Cioè, il lettore, secondo te, alla fine vuole sempre la soluzione del caso oppure... Allora, diciamo che i lettori oggi, anche se la soluzione non c'è e non è consolatoria, non si arrabbiano. Ah. L'importante è che tu non li hai fregati. Ovviamente, se non c'è la soluzione, più che un giallo diventa un noir, no? Sì. Cambia proprio l'ottica. A meno che il punto di vista sia quello dell'assassino. Certo, ecco. Che racconta le vicende. Allora, sì. Senza svelarvi niente, insomma, in Dieci piccoli indiani di Agatha Christie, che è certo. Il classico del delitto perfetto, e l'occhio che racconta è quello dell'assassino. Sai, cioè, che l'ho letto proprio, guarda, ti dico, 10 giorni fa. No, ma è un libro che ti stupisce, perché come lettore tu non sai che cosa succederà, come moriranno e come questa cosa è stata architettata. Ed è incredibile anche come l'assassino riesca a eliminare anche se stesso fisicamente, sì, dalla storia. Allora, il delitto perfetto, giustamente diceva Centazzo, non esiste, tranne quei delitti che per molti anni non vengono risolti, allora si trasformano in delitti perfetti, ma in realtà erano delitti che magari, se uno avesse indagato al momento guardando con un'altra ottica, un altro modo, tu dici, si sarebbero risolti facilmente. Questo lo stai dicendo legandoti anche a fatti di cronaca reali, non soltanto, sì, a romanzi, immagino. Sì, no? Sì, ecco. Sì, sì. Allora, io vi posso raccontare che, insomma, io abito qua vicino, insomma, dove c'è la birreria Stalingrado, fu ritrovato negli anni 70 un cadavere fatto a pezzi dentro all'immondizia. Ancora oggi quel cadavere non ha un nome e non ha una storia. So che i ragazzi che si occupano del centro di anatomia qua a Milano lo hanno studiato, ma quella storia lì non ci potrà essere raccontata, e non sappiamo se è stata una vendetta, se è stata una punizione di mafia, se è stata magari una storia di corna che è finita così. Possiamo fare solo delle ipotesi, sì, fantastiche su questo corpo che è stato ritrovato, e lo scrittore entra proprio in gioco lì, cioè cercare di dare un'identità a questo cadavere e scriverci una storia sopra. Centazzo prima spiegava, come poliziotto, che i poliziotti sono facilitati nel raccontare le storie. Sì. Tenete presente che fin dagli esordi della nativa poliziesca i poliziotti sono diventati dei narratori. Pensate a Vidocca, pensate a Petrosino, pensate a Serpico, no? Perché avevano delle storie molto forti da raccontare. Magari la grammatica l'hanno imparata man mano raccontandole, però i materiali erano caldi, freschi ed erano subito immediati per il pubblico. Ecco, forse piaceva anche quel tipo di narrazione, sì, però, sì, no? Ma il pubblico lo ha sempre amato, anzi, per i primi... si perdona, ecco, il linguaggio, sì, della scrittura. Anche perché le prime cose che venivano lette, soprattutto alla fine dell'Ottocento, erano le cronache dei processi giudiziari, che venivano molto amate e ristampate dentro ai celebri feuilleton, no? E la gente seguiva i processi in diretta, ed erano storie appassionanti, come se fosse un serial televisivo, la CSI da seguire. Tra pochissimo la viabilità, e vi ricordo anche il numero per gli SMS. Se avete qualche curiosità, scrivete pure, o su Facebook, la pagina è Il Riposo del Guerriero, oppure appunto via messaggi, il numero 349-238-6666. Il Riposo del Guerriero. Sentiamo quale mistero scioglierà la nostra Francesca Dragotto. Ciao Francesca, la nostra glottologa, buona domenica. Buona domenica a te e al tuo ospite. Ti piacciono i gialli? Sì. Tantissimo, veramente tanto. Cosa hai tirato fuori dal tuo cilindro lessicale? Oggi? Allora, oggi trascurerò i discorsi etimologici e le riflessioni sulla lingua, anche perché l'avevamo già fatto, sì, certo. Esatto. E quindi non parlerò del giallo, non parlerò del nero noir, non parlerò di investigazione o investigatore, che derivano dal latino vestigia, plurale di vestigium, che significa suola, pianta del piede, e che solo successivamente, per un rapporto di causa-effetto, passa ad indicare l'impronta, l'orma. Non parlerò di detective, che l'italiano ha ripreso dall'inglese, ma che in realtà è parola latina proveniente da un verbo che ho pronunciato anche detegere, che significa scoprire, in cui è interessante che quel tag sia lo stesso di tegola, di tetto, ma anche di testo. Li trascurerò perché ho intenzione di parlare invece di un apparentamento noto a molti ma non a tutti. Ecco, però, però ci hai incuriositi, sì, un sacco sulle altre cose. Sei stata, è un giallo questo, in effetti, no? Cioè, e quindi andate accenni su tuttopoli.com e leggete l'etimologia strategie. Brava, vai avanti, va bene. E quindi vorrei parlare invece di un tipo di giallo, di una sorta di sottogenere del giallo, che è caratterizzato dal fatto che in esso si integrano perfettamente, tanto da condensarsi, l'ambito poliziesco e quello medico. Quindi farò riferimento ad un filone che involontariamente hai già citato, sì. È un filone che organizza le proprie trame come gialli, dei gialli però che non hanno a che fare solo con la criminologia, perché insistono sulla medicina almeno quanto sulla criminologia, e soprattutto, come se queste due caratteristiche non bastassero, sono scritte da medici, medici di formazione e spesso, come nel caso dei due autori che sto per citare, medici di professione. E il primo è appunto Conan Doyle. Conan Doyle, autore tra l'altro di Sherlock Holmes, è infatti il primo ad aver tirato una linea che unisce le tecniche di analisi e di investigazione tipiche del metodo scientifico e quelle del metodo investigativo. Ricordiamo a tutti che Conan Doyle vive durante il positivismo, quindi come tutti quelli che hanno partecipato dell'aria che si respirava in quel periodo, riponeva una totale fiducia nelle potenzialità delle nuove scoperte scientifiche, soprattutto per quanto avrebbero potuto fare nella cura delle malattie. Si arrivava addirittura a ipotizzare che le malattie potessero essere del tutto debellate, e ovviamente questo avrebbe avuto delle ricadute positive anche sulle condizioni di vita complessive della società. Quindi medico prima che scrittore, Doyle crea Sherlock Holmes, nel quale riversa un talento, una capacità di intuizione che sicuramente sono fuori dall'ordinario. Un uomo con capacità superiori a quelle umane e di sicuro superiori a quelle degli investigatori di Scotland Yard. Quest'uomo riesce quindi a fare da sé, a condensare in se stesso tutto quanto faceva lo scienziato. Cosa li accomuna? La capacità di leggere segni, indizi che servono ad usare per risalire nel tempo fino alla scoperta del momento in cui un tessuto ha iniziato a degenerare. E questo tessuto poteva essere tanto un tessuto sociale, tanto un tessuto umano, quindi relativo alla fisiologia. Grazie a questa capacità di lettura e alla forza dell'interpretazione, che ne fa anche un precursore della moderna semiotica, e basandosi su un ragionamento di tipo induttivo, Sherlock Holmes riesce a scoprire le cause che hanno portato appunto alla malattia barra crimine. Naturalmente Doyle si è ispirato a dei modelli, avete già citato Poe, aggiungerei Gabor Yeo, ma si ispira anche a dei modelli reali. Finché è stato in vita ne ha riconosciuto uno soltanto, un suo maestro, anche egli medico, Joseph Bell, della cui vita riporta addirittura degli episodi ricchi di tantissimi dettagli e tutti quanti accomunati da una presunta caratteristica dello stesso Bell, ovvero la capacità di leggere nel corpo degli indizi. Quindi Bell non parlava, secondo Doyle, ma semplicemente guardando, non parlava con il paziente, lo faceva stare in silenzio, e semplicemente guardandogli le mani o il viso riusciva a ricostruire una vera e propria storia, una narrativa della patologia. Alcuni li induceva addirittura per autosuggestione all'autoguarigione, quindi guarivano senza essere curati, perlomeno non farmacologicamente. E ancora ad un medico, il dottor Watson, Doyle affida non solo il riscontro di quanto Holmes teorizza, ma affida una funzione che è ben più profonda, perché Watson ordina la cartografia indiziaria di Holmes. Anche nella recente versione cinematografica vediamo che Holmes non fa che prendere appunti a un grafomane che scrive su qualunque tipo di superficie, appunti che sono poi particolari, indizi più o meno microscopici all'epoca della batteriologia, che possono aiutarlo nelle sue ricerche scientifiche e criminologiche. E quindi Watson, anch'egli medico, reduce dalla guerra di Afghanistan, oltre ad essere la spalla di Holmes, oltre ad essere la voce narrante, è colui che ha funzione di registrare in quaderni tutti gli eventi in qualche modo pertinenti con le varie indagini, quaderni che costituiscono la controparte, quindi una sorta di alter ego degli archivi poco ordinati degli appunti di Holmes. Ecco Francesca. Ora, ecco, sì. E non posso più darti i compiti a casa te, perché no, lei va avanti. Certo. Ah sì, io vado. No, ma poi è divertente, perché tu hai raccontato il metodo scientifico di Conan Doyle, dall'altra parte potremmo raccontarti il Conan Doyle che vedeva le fatine, che credeva nell'aldilà, che credeva nei fantasmi, quindi tutto il lato scientifico l'ha messo in alcune storie, poi nella realtà lui invece aveva un universo anche fantastico che coltivava tutti i giorni. E c'è una cosa divertente che volevo dirvi, ma voi lo sapete da dove nasce la parola thriller, per esempio? Forse Francesca lo sa. Io sì, però lasciamo la domanda agli ascoltatori. Allora, lo facciamo come quiz. Ah, va bene, ok. Sì. Allora, dai, cercate di indovinare da dove deriva la parola thriller. Ma adesso con internet è facile rispondere. Allora, senza guardare su internet. internet, cercate di indovinare. Quindi già un po' più complicato. 349-238-6666. Francesco, non hai tempo per raccontare l'altra storia, ma siamo curiosi di sapere chi avrebbe riguardato. Crichton. Ah, Michael Crichton. Anche egli medico. Quindi è accomunato a Doyle, accomunabile a Doyle anche per aver scritto un testo incentrato sui medesimi contenuti. Quindi c'è un e non solo, tutti e due sono accomunati dal fatto di aver fornito materia, sostanza narrante a due famosissime serie televisive, da Crichton, da Five Passions, tradotto in italiano con Casi di emergenza, ha tratto origine ER, mentre da Conan Doyle, o meglio dalle avventure di Sherlock Holmes, sì, quello che noi in italiano chiamiamo Dottor House, quindi House Medical Physician. Sì. È vero, Francesca, sì. Ci hai sorpreso anche con, vedi, una veste un po' diversa del tuo solito. No, ma poi è divertente perché, tornando al discorso dello scrittore che ruba anche le cose, sì, potremmo dire che Sherlock Holmes, cioè Conan Doyle, in realtà poi ha ispirato Crichton per Jurassic Park e per Il mondo perduto, cioè una prosecuzione di storie prese e riscritte. Partiamo e non finiamo mai, ma giustamente, meglio così. Francesca, grazie, ci sentiamo domenica prossima. Poi, a presto, e con il riposo domenica del guerriero si continua a parlare di gialli dopo il GR. Il riposo del guerriero. Alle 11:11 minuti continua il riposo del guerriero. Ancora buona domenica da Stefano Gallarini. Qui su Radio 24 si parla di gialli. La puntata si intitola Tutti i segreti del giallo. Ma posso prendere in prestito il titolo del tuo saggio, Luca? Tutti i colori del giallo, sì. Sono contento, guarda, te lo do volentieri. È più colorato. Sì, no, proprio più bello, è più giusto, mi piace molto. E, Luca Crovi è qui in diretta con me da questa mattina e c'è anche Fabrizio Canciani adesso al telefono. Ciao Fabrizio, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Stefano, buongiorno anche a Luca che conosco bene. Buongiorno, sei pronto per cantare? Perché tu vieni dal mondo della canzone, Sì, ma qui non si canta, qui si parla di gialli, si parla di altre cose, dai. Insomma, ma sai che poi come fai? Anche gli sbirri ti fanno cantare, sappi anche questo. Sì, è vero, si canta come in questo. Bisogna, poi si fa cantare anche delle persone ovviamente per cercare di avere informazioni. Ovviamente. Esatto. Allora, tra le tante cose che hai scritto Fabrizio ci sono i gialli in un minuto e ne avevamo già parlato in un'altra puntata del Riposo del Guerriero, però io ti ho chiamato perché siccome abbiamo questa iniziativa che è Giallo 24 dove gli ascoltatori devono scrivere un giallo di 20 cartelle circa e poi ridurlo a una cartella soltanto, devo capire quali sono i tuoi segreti per riuscire a scrivere dei gialli anche in meno di un minuto, alcuni durano una battuta, ecco. No, vabbè, ma la sintesi, i gialli sono come delle pallottole, devono essere fulminanti in questo caso, quindi sono gialli scritti in due righe, se vuoi te leggo qualcuno. Vai, spara. Sparo. Notte, solo nella via, il semaforo lampeggiava, la freccia di un'auto lampeggiava, la scritta hotel lampeggiava, anche l'albero di Natale lampeggiava. Lui vide il cadavere, poi non lo vide, poi vide il cadavere, poi non lo vide, poi vide il cadavere, poi non lo vide. Insomma, lampeggi anche tu. Certo, poi. Allora, notte buia e tempestosa. Sì. Un tempo da cani, vagavo come un cane randagio. Solo come un cane, un freddo cane, e alla fine fu arrestato dal commissario Rett. Ma porco cane! Va bene, quindi questo. Lo sapete che il commissario Rex, sì, è il cane più assicurato del mondo? Cioè il costo di gestione di quel cane è una sorta di multinazionale. Ma è uno solo? È uno solo. Ma dai, uno! C'ha il bodyguard, ha una camera speciale, insomma, ha tutta una serie di caratteristiche per cui è un valore capitale per la produzione televisiva. Allora Fabrizio, intanto ti ringrazio e anche per insomma, la tua comicità di Gianni in un minuto, che sono veramente molto divertenti, questo rileggili. Tra l'altro ti faccio un in bocca al lupo per una cosa futura, perché Luca così mi ha raccontato, non so se si può dire, non credo. Insomma, sta lavorando a un giallo non in un minuto molto bello. Ecco, mi pare che sia esatto molto interessante, per cui può poi, insomma, ecco, in bocca al lupo, ecco, grazie, al tuo Rex, ciao Fabrizio, buona giornata. Allora, io volevo tornare sulla brutta cronaca di questi ultimi giorni, ma per chiederti una cosa, Luca, perché tu mi dicevi all'inizio, quando si parla, siccome poi i gialli accadono nella vita di tutti i giorni, ci sono i romanzi e sono falsi, sono storie inventate, poi purtroppo ci sono invece realtà e anche molto amare. Tu mi raccontavi che secondo te quando succede una cosa grave, in questo caso parlo delle bombe vicino alla scuola, è meglio non pensare a un autore o degli autori almeno per 2 giorni. Ma secondo me è meglio sospendere il giudizio. Uno, io trovo che la prima cosa alla quale bisogna pensare sono le vittime che sono rimaste all'interno di questi attentati. E seconda cosa, secondo me nessun buon giallista, ma neanche nessun buon investigatore può dare la soluzione del caso subito, perché il rischio è di sbagliare. Sì. Quindi in genere è meglio sospendere il giudizio e aspettare qualche momento in più per guardare un po' più con lucidità e anche per trovare tutte le piste, se no si rischia di sbagliare l'identikit dell'assassino. Vi faccio un esempio: quando c'è stato l'11 settembre negli Stati Uniti, a un certo punto l'FBI reclutò tutta una serie di sceneggiatori del mondo del cinema, importanti, e scrittori, e li chiuse per quasi 3 mesi a cercare di spiegare quello che era successo, con le ipotesi anche più incredibili di quello che poteva succedere. Ma questi signori in realtà erano sempre degli scrittori, non erano degli investigatori, quindi potevano dare delle ipotesi, ma non risolvevano il caso che avevano nelle mani. Trovo che anche quando ci sono dei casi di cronaca reale efferati, probabilmente l'esperto di settore delle volte dovrebbe aspettare che gli inquirenti risolvano il caso. È più giusto. Ecco, non si rispetta mai questa regola, però. Ma perché lo fa audience televisiva, no? Più tu dici chi potrebbe essere il colpevole, perché lo ha fatto, che cosa è successo, e più la gente magari... Sì, i meccanismi sono logici, però è interessante, ecco, sentire anche la tua opinione da questo punto di vista, anche come scrittore di gialli. Sì, ma poi posso dirvi che per me la prima è sempre il rispetto della vita degli altri, ma in secundis posso dirvi che anche aspettare delle volte aiuta molto a risolvere le situazioni, perché non si è affrettati nel dare i giudizi e soprattutto nel trovare colpevoli che magari non lo sono. Siano anche più elementi in mano in quel momento. 11:16 minuti, aggiornamenti sul traffico e ancora parleremo di gialli con altri ospiti. Il riposo del guerriero. Mattia, per quanti anni ancora vedremo CSI? Aggiungeranno una città o ne toglieranno qualcuna? Una l'hanno già tolta di città. Ah, una l'hanno già tolta? Io sono indietro, vedi? Cosa hanno tolto? New York? Sì. Ah, immaginavo. Sì. Per quanti anni? Non lo so, perché di solito queste serie... Innanzitutto buongiorno. Sì, ciao. Sai che noi entriamo subito. Alla fine portano tantissimi spettatori e per un network sostituirla significa trovarne un'altra che porti lo stesso numero di spettatori. Quindi, siccome i crime drama funzionano bene... perché hanno episodi autoconclusivi, quindi lo spettatore può vedere anche una puntata e perdere un'altra. Tu non sai come mi arrabbio quando la dividono in 2 parti, tu non hai idea di come mi arrabbio. Allora, intanto Matteo Invece sai quanto funziona per il canale. Io mi arrabbio. Matteo Nicoletti è autore di un blog che è Mub, la TV è una cosa serial, quindi blog.layweb.it, Mub, M-O-B. Mattia, appunto, tu sei esperto in questo senso e volevo capire quanto i telefilm gialli funzionano. Mi stai dicendo che continuano a funzionare. Ma sì, continuano a funzionare sempre perché doctors, cops, lawyers, quindi medici, poliziotti e avvocati è la regola hollywoodiana. Quando rimetti tutti insieme poi lì fai l'amplena. È proprio così, quindi alla fine medical drama, crime drama e legal drama continueranno ad esistere, anche se la gente si è un po' stufata, perché adesso ce ne sono troppi, basati su strane coppie, su ladri e poliziotti che si mettono insieme, piuttosto che antropologi, piuttosto che coppie di medici legali, insomma c'è di tutto. Come vedi il futuro? Cioè, secondo te come ci si sposterà? Avremo ancora quegli ingredienti lì e ancora per molto tempo, o si sta già spostando la scrittura e anche gli elementi cominciano a essere diversi nei racconti gialli? Il discorso è un po' complesso perché, immagino, siccome si moltiplicano i canali e le possibilità di fruire di contenuti televisivi, dal video on demand al appunto, come lo so, Hulu e Netflix, piuttosto che ai network, piuttosto che alle cable, piuttosto che YouTube channel, praticamente ci saranno una molteplicità di contenuti. Sicuramente questi generi, siccome anche se si mischieranno, cioè qualcuno dice che non ci saranno più dei generi definiti, ma saranno un insieme di mille generi, però di fatto esistono da quando esiste Conan Doyle, diciamo, o Edgar Allan Poe, quindi non vedo perché non possano resistere per altri 50 anni, ecco. Senti Mattia, visto che hai citato Conan Doyle, una delle grandi formule di successo è stato il nuovo Sherlock Holmes fatto dagli inglesi, che mantiene la struttura di quello originale, alcune delle battute sono esattamente le stesse dei libri Sherlock Holmes, però è ambientato ai giorni nostri. Ti sei divertito a vedere questa nuova copia Watson Sherlock Holmes ai giorni nostri? Allora, penso che sia una delle cose più belle che sono state fatte negli ultimi anni. È geniale perché appunto ambientato c'è Watson che è un reduce dall'Afghanistan, Sherlock che è un giovane folle in pratica, e ci sono, cioè, è girato fra l'altro anche benissimo, nel senso che spesso nelle serie televisive vengono date le linee guida e quelle vanno seguite indipendentemente dai registi che poi dirigono i singoli episodi, che cambiano a volte, quindi salvo Tarantino che prende CSI e ne fa quello che vuole, in linea di massima nessuno può permettersi di cambiarle, mentre qui c'è proprio una ricerca sulla regia, sul testo incredibile, diciamo che è veramente una delle cose più belle. Poi la televisione inglese in questo momento sta facendo delle cose spettacolari. E poi ti chiedo un'altra cosa, io sono stato un fan di 24, di quelli della prima ora. Tu ti aspetti tanto dal film che uscirà l'anno prossimo o pensi che non avrà lo stesso ritmo del serial televisivo? Non penso ci siano dei film venuti dopo le serie che abbiano avuto successo, penso a Sex and the City, a CSI, anche ai Simpson se vogliamo, forse meglio il contrario, non so, tipo da MASH alla serie, ecco. Ecco, forse Simpson ha più funzionato perché era solo un cartone molto più lungo, però fondamentalmente anche X-Files non cosa, è funzionato. No, però anche X-Files non funziona. No, ma posso aggiungere una cosa? Devi. Poi c'è un grosso problema, che di fatto il film dura 2 ore e non possono mantenere il tempo reale, che è la cosa fondamentale, certo, di 24. Certo. Senti, Mattia, si parlava con Luca del fatto che i gialli, i romanzi scritti, tratti dalle serie televisive, invece funzionano. In particolare CSI è un successo sia in Inghilterra che negli Stati Uniti, nella versione a romanzo. Certo. Ma questo, guarda, è difficile spiegarlo perché alla fine la base di una serie televisiva è lo storytelling e i personaggi. Se funzionano i personaggi, funziona, diciamo, 3/4 della serie. Per quello che dico, il crime drama continuerà ad esistere, perché se vengono approfonditi i personaggi o ci sono dei personaggi geniali, come ad esempio è stato Colombo, cioè la forza di Colombo, oltre al fatto che aveva un approccio reverse, quindi diceva prima chi era l'assassino e poi dopo faceva seguire lo spettatore il percorso di Colombo alla ricerca dell'assassino, appunto, il colpevole. Colombo era perché c'era Peter Falk, lui ha deciso di prendersi di mettersi il trench, e lui ha deciso, non so, di avere quei tic di mettersi in tasca la mano e tirar fuori l'indizio, ma che invece era la lista della spesa, insomma, quelle lì le ha inventate lui, quindi la forza di Colombo era Peter Falk Colombo. Ecco, senti, avremo delle nuove Jessica Fletcher in televisione, le vedremo? Ormai quel modo di raccontare il giallo non esiste e non esisterà più. Ma Jessica Fletcher, fra l'altro, è un Hillary Queen al contrario. Sì. E quindi, secondo me, è un modo di raccontare un po' vecchio. Certo. È molto Agatha Christie e molto Miss Marple. Infatti, lei appunto una scrittrice di gialli dopo essere andata in pensione, faceva l'insegnante di lettere, di inglese. E, quindi, secondo me, quel tipo di narrazione è ormai un po' invecchiata, non penso che l'avremo, perché è un po' come si è un po' âgé. Secondo me è un po' polverosa, ecco. Piace ancora perché sì, certo, ma sono ancora quelle cose che tu rivedi, che sai già perfettamente chi è stato, sai già cosa è successo, sai già tutto il meccanismo, ma lo riguardi. No, in realtà funziona nei romanzi anche quella, sì, perché immagino. Tutti gli amanti della Christie, quando non trovano dei romanzi di genere su quella linea o quella di P.D. James, prendono proprio i romanzi di Jessica Fletcher che ci sono in edizione italiana e che hanno anche delle tirature pazzesche. Mi poi fa ridere proprio il gioco tra scrittrice reale, fasulla, eccetera. Questa è un'altra cosa. Grazie Mattia, intanto buona domenica. Grazie, ti seguiremo sul tuo blog, poi ti avremo ancora come ospite. Volevo chiudere con Teo Pastori. Teo, buona domenica. Buona domenica a voi. Allora, Teo Pastori è il direttore tecnico dei negozi Tecnospy, che è una catena di negozi di spionaggio domestico. Insomma, dobbiamo concludere i gialli con qualcosa che ci riguarda anche da vicino. Teo, immagino che le cose più vendute, è una domanda che ti faranno tutti, ovvio, ma io dico, saranno le telecamere nascoste da dovunque, dall'orologio, ecco. Sì. Sì, sì, diciamo che la richiesta in assoluto alla grande sono appunto le telecamere, microcamere, registratori audio e video che tutti richiedono per verificare o per monitorare l'abitazione in loro assenza. Poi ci sono altre strumentazioni che vanno alla grande, dipende sempre dai momenti, dai periodi e da quello che succede sulla strada, sul marciapiede. Ecco Teo, volevo chiederti questo, secondo te l'acquisto di una microcamera, una microspia, chiamiamola così, non audio ma addirittura video, ormai con la tecnologia si può, è perché si ha così poca fiducia della persona che si vuole seguire, tra virgolette, oppure c'è anche chi le compra perché spera di trovare, non so, di risolvere un caso, di trovare un giallo, di trovare lo spunto per un mistero da risolvere? Ma diciamo che molte persone ricordano questa tecnologia perché già scottati dalla vita, nel senso che hanno già subito dei furti o delle situazioni scomode nell'ambiente domestico familiare, per cui è proprio un argomento di difesa. Poi ci sono persone che cercano di capire che cosa gli succede attorno, perché vivere col dubbio è molto stressante, molto faticoso, per cui sia per riguardo i figli, sia per quanto riguarda le colf in casa, sia per quanto riguarda i problemi di stalking o di mobbing nelle aziende. Diventano veramente prodotti che ormai servono quasi tutti i giorni. Quindi tu dici che normalmente l'acquisto è dettato da un'esigenza, cioè quella di dimostrare per esempio qualcosa o di capire cosa succede veramente tipo in casa, o i figli se fanno veramente quello che dicono, una cosa del genere. Sì, ma ecco. Poi ci sono anche situazioni veramente sul pesante, parliamo di cliniche private dove ci possono essere situazioni strane rivolte ai pazienti o ai recenti situazioni di violenza di altra natura. Insomma, il controllo delle persone che insomma hanno a che fare con chi ci sta caro e quindi vogliamo che siano trattati in un certo modo. E quanto si spende normalmente per comprarsi una di queste microcamere, Teo? Ma diciamo che prodotti di buona qualità non sono prezzi eccessivi, partiamo dai 200, 300, poi per arrivare anche a 1200, 1500. Dipende il tipo di sistema e di situazione in cui ci si incontra, però diciamo che questa è la situazione. Mi racconti la cosa, Teo, non so, quella più particolare che in qualche modo ha sorpreso anche te? Beh, diciamo che difatti con quello che viviamo tutti i giorni ce ne sono tanti, però ad esempio una cliente che voleva regalare un registratore particolarmente nascosto al marito che era un professionista, avendolo già incartato e tutt'altro, non si era accorto di lasciarlo acceso nella custodia. L'indomani nel regalarlo al marito ha trovato tutta la conversazione fatta dal marito la sera precedente ad altre persone. Non è stata una giornata piacevole. Però ha scoperto qualcosa, vedi che non so. Vabbè, comunque dobbiamo stare attenti, anche quando si firma un documento, attenzione, se c'è un buchino dove c'è la clip della penna, potrebbe essere l'ottica della microtelecamera, per cui state sempre attenti. È vietato, Teo, fare questo genere di riprese comunque? Diciamo che in alcuni ambienti sono vietati, in altri ambienti sono lecite. Se io faccio una registrazione a casa di terzi, chiaramente anche poi in giudizio, sì, questa registrazione non viene diciamo presa in considerazione. Non è una prova. Esatto, in più commetto un reato. Se lo faccio in casa mia e ho situazioni di terzi che mi rubano o mi danneggiano o mi molestano, chiaramente quella situazione è di uso e consumo. Anche se non c'è il cartello, questa casa è videosorvegliata? No, perché sono all'interno della casa, non sono all'esterno, per cui la parte pubblica sono obbligata ad avvisarla, certo. La parte privata sono libero di farne ciò che voglio, nel momento in cui non creo danno o danneggio l'altro. Sei stato molto chiaro. Grazie Teo Pastori, buona domenica. Grazie anche a voi. Grazie, grazie, ciao. Allora Luca, siamo quasi in conclusione. Devo dire che ascoltando Teo a me veniva in mente già una storia da raccontare. Infatti, ma io quello che ti stavo per chiedere è proprio questo. È incredibile, perché lui racconta una quotidianità in cui gli altri hanno bisogno di spiarci in qualche modo, e di controllarci. Da tutto questo può nascere una storia incredibile, che può essere tua moglie che ha dimenticato il registratore acceso, come in questo caso, oppure magari il papà preoccupato per il figlio e scopre che magari il figlio sta preparando, non so, una bomba in casa, oppure se non sta preparando una bomba fa qualcosa di tremendo con i suoi compagni di classe. Cioè è un modo di raccontare che è legato alla quotidianità, dove noi non pensiamo che neanche che possano esistere queste telecamere o queste microspie di cui parlava Teo. Devo dire che mi ha spaventato un po'. Sì. Io però per i miei figli spero di non doverle usare, sinceramente. Preferisco che mi raccontino loro cosa combinano piuttosto magari che non spiarmi. Magari le useranno con te loro, tu certo, non lo puoi sapere. Per controllare quanto ci impiego, cosa sto cucinando, se sto mettendo qualcosa di pericoloso nella pappa. Però come spunto di un romanzo potrebbe essere molto interessante. Bello. Anzi, anche perché puoi trovarti di fronte a un caso senza averlo cercato. Certo. No? Cioè, te lo trovi. No, essere magari spiato casa, e bloccato dai figli che mi controllano non è male. Anzi, potete usarlo per un giallo di quelli di Radio 24. Stavo dicendo, infatti, gli spunti ne abbiamo dati tanti, speriamo che li possiate usare e poi molti ne darete voi a noi, lo sappiamo. Giallo 24, quindi tra poco in onda, poi tutte le informazioni anche sul nostro sito. Intanto grazie Luca Crovi per essere stato qua tutto il tempo, ci hai raccontato tanto e poi ti leggiamo come al solito. Beh, grazie a voi, avanti. Buona suspense e divertitevi con Giallo 24. Grazie ancora a te ed è il momento di Davide Paolini. Il gastronauta. Ciao Davide, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ci sono dei misteri che avvolgono le cucine dei ristoranti più famosi? Ci sono sicuramente dei misteri. Mettere un videoregistratore, una telecamera o d'altro, che i cuochi non lo sapessero, sarebbe molto divertente. No, ma mi viene da pensare anche, non so, grandi chef che hanno rubato, hai capito, ricette ad altri. Non so, queste cose qua. Questo spionaggio della cucina. Il problema è che non c'è il copyright sulle ricette, è un problema molto dibattuto, quindi diciamo che rubare è libero, insomma, non è reato, però ci sono dei segreti ovviamente nelle cucine, ci sono dei segreti che sarebbe molto interessante andare a scoprire, però io non direi di andare nelle cucine dei grandi cuochi, io andrei proprio nelle cucine quelle normali, sarei molto curioso di vedere quali prodotti utilizzano e dicono di utilizzare, ad esempio l'olio, sarei molto curioso di vedere quale olio usano, visto che siamo sul giallo e il colore dell'olio, io credo che l'olio che dichiarano di utilizzare in cucina molte volte non sia proprio quello, specialmente come dicevo nella media dei ristoranti, sui grandi ristoranti forse sarebbe molto interessante nel vedere se sono loro i grandi chef che cucinano i piatti oppure se sono i loro secondi. Io sono convinto che in molte cucine di nomi famosi i veri protagonisti non siano i nomi che appaiono sull'esterno, ma siano dei nomi, dei personaggi oscuri che lavorano nelle cucine. E sono molto, molto convinto di questo. Ecco, una sorta di ghostwriter, no? Quindi esattamente come chi firma e poi invece chi scrive è tutt'altro, insomma. Sì, sai, ormai sempre di più c'è, diciamo, il personaggio che inventa le ricette, però ci sono i manovali che poi le realizzano, di fatto. E molte volte sono più manovali, perché diciamo che il puzzle è fatto di più cose in un pranzo e in una cena, e quindi è interessante, sarebbe interessante vedere. Ecco, questo forse avviene di più nei vini, vero? Beh, sai, nel mondo dell'enologia, perché credo che insomma molti nomi eccellenti abbiano così firmato etichette, però poi sono ovviamente altri quelli che curano. Questo è consentito, perché di solito diciamo chi appare è, come posso dire, quello che mette assieme tutte le varie parti. Sai, nelle cantine ci sono gli enologi, ci sono gli agronomi, quindi è un lavoro sicuramente di equipe. E devo dire che lì succede il contrario, direi, anzi a quello che hai detto, che molte volte diciamo che sono i winemaker quelli che sono balzati alla ribalta molto più dei proprietari delle aziende, anzi c'è stato, diciamo, nel decennio precedente che sicuramente erano più noti i winemaker che i produttori, tant'è vero che si diceva quel vino è fatto da, e non è quel vino di. E quindi credo che lì, cioè, i segreti sono venuti allo scoperto, anzi secondo me sono stati veramente sfruttati da molti, che ci sono molti winemaker che hanno centinaia di aziende, curano. Addirittura c'è un francese che viaggia in tutte le parti del mondo con un aereo suo personale, pronto a dare un colpo di qua, un colpo di là, un naso di qua, un naso di là, una bevuta di qua, una bevuta di là, aggiusta vini, quindi credo che sia diventato multimiliardario proprio in questa maniera. Bene Davide, allora ti regaleremo una microspia a forma, non so, di saliera, così almeno tu la potrai appoggiare nelle cucine dove vorrai, per andare a scoprire se quello che pensi sia vero o ma meno. Ma sai, sarebbe molto interessante perché diciamo che ormai la salute dipende molto da cosa mangiamo, sì. Anzi tanto da cosa mangiamo. Secondo me una microspia in tutte le cucine del mondo sarebbe molto interessante, secondo me ne verrebbero fuori delle belle. Vabbè, hanno cominciato mettendo il vetro, no? In tante cucine c'è il vetro e vedi cosa sta succedendo, per cui già quello è un buon modo per curare quello che viene preparato. Vedi solo certe fasi, ma non vedi tutto. Poi c'è la fase nascosta, tu dici, quella resta nascosta. Grazie Davide, buona domenica. No, volevo dirti, dimmi, come volevo... no, scusami. Ci sono molti ristoranti ormai che fanno questo gioco, diciamo la cena con il delitto. Sì, sì. Indovina chi è il colpevole, e quindi ci sono i famosi gialli in molti ristoranti, appunto, che abbinano la cena, certo, con, diciamo, questo gioco. E quindi forse se lo facessero non tanto col delitto, ma sicuramente col delitto del cuoco potrebbe essere. Ve lo faremo, perché è una cosa che mi riguarda, perché lo organizzo anch'io. Grazie, ciao Davide. Ciao. Buona domenica, per cui non ne volevo parlare. 11.35, tra pochissimo il mistero in 24 minuti, così rimaniamo in tema. Ci sono 1000 euro per voi da spendere su libreriarizzoli.it. Le previsioni del tempo. Il riposo del guerriero. Un mistero in 24 minuti. Un ritardo con il mistero in 24 minuti, quindi cominciamo subito con il primo indizio. Le luci bianche nella notte sembrano accese per me. Eccolo qua, questo è il primo indizio. Davide, buona giornata. Ciao, buongiorno a te. Ciao Davide, grazie. Allora, intanto vi ricordo, la soluzione può essere un personaggio, qualcosa di molto conosciuto, oppure una delle notizie della settimana. Siamo a 1000 euro. Davide in questo momento può scegliere di dare una risposta e quindi tentare di portarsi a casa il premio intero, oppure può scegliere di ascoltare un altro indizio e il premio si dimezzerebbe in quel caso. Allora Davide, cosa vuoi fare? Provo a rispondere. Allora, okay. Visto che settimana scorsa sono portati via i 1000 euro, tu dici magari anche questa. Proviamoci, vai Davide, la soluzione. Allora, partendo appunto da Giuliano Palma, direi Palma d'Oro, Festival di Cannes, Nanni Moretti, che appunto è stato nominato presidente di giuria e almeno per questa settimana, no, può ritenersi, diciamo, l'autorità di riferimento della nota città costiera francese, ecco, quindi la città è un po' tutta sua. Grazie. Ok. Grazie Davide, potrebbe essere la risposta giusta, ma lo scopriremo al 24esimo minuto, sarebbero 1000 euro. Ciao, buona giornata. Ciao, ciao, ciao, ciao. Alfonso da Napoli. Ciao Stefano. Ciao, ciao. Alfonso. Io vorrei ascoltare un altro indizio. Ecco, e allora eccolo il secondo indizio, scendiamo a 500 euro. You say, won't love. One life when it's one need in the night. One love we get to share it. Leaves you, baby. Alfonso, questo è il secondo indizio, li hai riconosciuti, sono gli U2 di One. Vabbè, allora io dico sì. Marcello Litti che ha scelto di andare ad allenare in Cina. Eccoci qua. La squadra qua. Cinese. Grazie, anche per te, chi lo sa, sarebbero 500 euro nel tuo caso. Buona domenica, ciao Alfonso. Ciao, allora 800240024, continuiamo dopo gli aggiornamenti sul traffico. Strade in diretta. Strade e autostrade lungo la rete ferroviaria proseguono le verifiche tecniche, gallerie, ponti e viadotti dopo la forte scossa di terremoto che ha colpito stanotte principalmente l'Emilia-Romagna. Al momento non si registrano danni alle infrastrutture, si registrano tuttavia forti ritardi per i treni in transito. Sulla linea Bologna-Verona i treni vengono deviati via Padova e via Modena con inevitabili allungamenti nei tempi di percorrenza. E per quanto riguarda il traffico sulle autostrade, segnaliamo traffico intenso con code sulla A4 in direzione Milano in entrata alla barriera di Milano Est e lungo la 9 Lenate-Como-Chiasso verso la Svizzera a partire da Como Nord. Trafficata anche la 22 del Brennero, in direzione Brennero c'è coda tra Bressanone e Vipiteno. Per il momento è tutto, appuntamento tra mezz'ora. Un mistero in 24 minuti. Mi piace questo nome composto. Maria Vittoria, buona domenica da Roma. Grazie, sono io. Allora, Maria Vittoria, cosa vogliamo fare? Siamo a 500 euro, due indizi sono stati svelati. No, io già ero partita subito, poi se va, va. Se va, va, chissà. Pensavo se va. Pensavo alla Torre Galfa di Milano con la difesa di Dario Fo. Grazie Maria Vittoria. È da ieri che ci pensi. Vabbè, grazie. Potrebbe essere. Grazie Maria Vittoria, buona domenica. Altrettanto a voi, grazie. Siamo ancora a Roma con Rinaldo. Sì, pronto, buongiorno. In buona campo, domenica. Ciao Rinaldo. Allora, pronto, buona domenica. Allora, io ero convinto di dire anch'io la Palma d'Oro, Palma, Giuliano Palma con Canna. Però l'hanno già data la risposta, quindi mi butto su un'altra. Puoi anche ascoltare un altro indizio se vuoi, Guarda, io provo a rispondere lo stesso così, perché non con questo One Love mi è venuto in mente che oggi la Juventus giocherà la finale di Coppa Italia con una, un richiamo alla prima e ultima partita di Del Piero e scritta One Love, quindi dico l'addio di Del Piero alla Juventus. Proviamo. Grazie Rinaldo, sorrido per la voi. Tua risposta che comunque c'entra molto. Però non ascoltate mai i miei consigli, non so perché, i miei consigli non vi piacciono, perché abbassano il premio, lo so, però Virginia da Roma, buongiorno. Buongiorno, come sta? Bene, bene Virginia, allora sì. Cosa vogliamo fare? Allora, io do la risposta. Anche tu, allora facciamo così, ascoltiamo i due indizi. Portare. Allora, io dico no. G8 a Camp David, che è un, diciamo, chiamiamolo paesino, insomma, che dista di 20 chilometri al primo paesino che incontri, e quindi io dico il G8 a Camp David. Va bene. Poi non so se è un personaggio, io dico il fatto. E tu dici il fatto, la notizia, certo, c'è va anche bene. Quella. Grazie, ciao Virginia, ciao. Ciao. Paolo da Pisa. Io mi sa, buongiorno. Buongiorno Paolo. Mi sa che invece ascolto il ecco, perché. Perché Paolo dice, ma sì. No, perché mi hanno, diciamo, ci ha preso le mie risposte precedenti. Vabbè, allora tu, insomma, tieni in mente, ascolta questo terzo indizio, anche se scendiamo a 300 euro. Qui la canzone di Claudio Baglioni, che è anche il terzo indizio del nostro mistero. Paolo, te la ricordi questa canzone di Claudio Baglioni? Sì, me la ricordo, ma non... Il titolo, non ti ricordi? È Poster. Poster? Poster, con la R finale, Poster. Poster. Non mi viene in mente nulla, l'unica cosa che mi era venuta in mente, che cosa? Ascoltando il primo indizio, sì. Era, diciamo, i ballottaggi che si svolgeranno questo weekend. Però con gli altri, diciamo, indizi non ci vedo. Ah, perché è tutta mia la città, vabbè, te lo dico io. Guarda, invece ci stanno, ti dico perché. Tutta mia la città perché si eleggono i sindaci, giusto? Allora, One perché uno dei due deve vincere, giusto? E Poster perché hanno fatto la pubblicità per le varie città, no? Vedi, tutti e tre gli indizi c'entrano, Paolo. Chi lo sa, sarebbero 300 euro. Ciao, buona domenica. Ciao. grazie. Francesca da Milano, buongiorno. Buongiorno. Ciao Francesca. Grazie di avermi fatto partecipare. A te di partecipare, ma devi dirmi cosa vuoi fare. O un altro indizio e scenderemo a 200 euro, oppure mi dai la tua risposta. A questo punto do la mia risposta. Inizialmente avevo pensato ad una notizia, ma adesso, dopo aver ascoltato i diversi indizi, ho pensato al personaggio. Sì. E quindi ho pensato a Giuliano Pisapia. Grazie. Si riconduce un po' anche alla proposta fatta alla Torre Galfa questa settimana. Certo, grazie Francesca, buona grazie. Domenica, ciao. Salve. Infatti Francesca è di Milano, come Ugo anche. Ciao Ugo, buongiorno. Certo, buongiorno. Scusate la voce, ma un po' di raffreddore. Va bene, è più sexy la voce rauca, lo sai, no? Oggi puoi così sbizzarrirti. A fare degli scherzi telefonici, non so, c'è una volta che non c'è. Allora, io quando ho sentito il primo indizio ho messo subito, diciamo, accesa una lampadina, però sì. Non lo so se perché poi sentendo gli altri due più o meno l'ho confermato. Ah, no, okay. Anche se non sono riuscito a ascoltare tutta la trasmissione per intero. Posso dare la risposta? Allora tu puoi scegliere di ascoltare un indizio oppure di dare una risposta. Dai la risposta? Sì, sì. Ok, allora aspetta un attimo, sentiamo i tre indizi che abbiamo scoperto fino a questo momento. Tutta la mia la città, un deserto che conosco. One love, one love. Un poster che qualcuno ha già scarabocchiato, dice vieni in Tunisia. Tutta mia la città. È scaduto anche il tempo. Giuliano Palma, One degli U2, poster Claudio Baglioni. Ugo, la tua risposta? Dunque, adesso sul terzo sono un po' indeciso. Comunque, ormai sono partito, quindi la dico. Secondo me, durante la festa per il terzo posto, Guidolina ha detto: questa è la mia città, vi voglio bene e rimarrò qui. Grazie Ugo, non è la risposta giusta, mi dispiace. Ciao, grazie, ciao. E la risposta giusta, si era avvicinato Davide, è vero, il primo indizio riguardava proprio Cannes, visto la Palma. One perché è una la candelina che Marilyn Monroe così cerca di spegnere sulla torta dei poster che rappresentano proprio che rappresentano la manifestazione, il Festival del Cinema di Cannes, e il personaggio era proprio Marilyn Monroe, che è l'icona che rappresenta questo 65esimo Festival di Cannes. Quindi con altri indizi sareste arrivati sicuramente anche a lei. Mi dispiace, nessuno ha indovinato. Ci riprovate la settimana prossima. Grazie a Giorgio De Luca redazione, Gian Gabriele Lombardo in assistenza, Filippo Reggi in regia, e a voi a domenica prossima. Buona settimana da Stefano Gallarini. Oh!